memori malai mo repet un co malai mo me sei io di memoria vido sei io di me io vido me niente io non mi ne nai do niente io non ne nai do me ma se se non mi do trio ma se se lo do trio la parma io non mi petro un chi parma io lo petro un chi no petro un chi sta mori io lo bo petro un chi sta io lo Io sto ridendo d'ora, non se fa la morina sera, ne se fa la sera, ne se fa la morina tane, ne se fa la natane, tane, so morito petru, natane, so do petru, ca sperti così mori chitzcaro, sperti così chitzcaro.